Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Gli immigranti hanno l'obbligo di rispettare i valori di riferimento della società nella quale hanno deciso di stabilirsi, ben sapendo che sono diversi rispetto al mondo da cui provengono. A metterlo nero su bianco è la prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un indiano Sikh condannato a 2.000 euro di ammenda dal Tribunale di Mantova nel 2015 per essere stato sorpreso mentre usciva di casa armato di un coltello lungo quasi 20 centimetri. L'uomo si era giustificato spiegando che portava il coltello rituale Kirpan, così come il turbante, per rispetto ai precetti della propria religione, e aveva fatto ricorso chiedendo di annullare la sentenza di condanna e la multa. Spiegano i giudici della Suprema Corte: se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine in consonanza con l'articolo 2 della Costituzione, che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e delle leggi della società ospitante. Ancora, non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. È una sentenza che farà parlare molto, già fa discutere questa mattina, quella che vede come soggetto il Sikh che vuole portarsi dietro il Kirpan. Il Kirpan è un bel coltellone, un coltellone a mezzaluna che lungo 20 centimetri si portano alla cintura, perché fa parte, per questa popolazione che viene dall'India, che in Italia ha dato grandi risultati di alacrità nelle due sponde del Po, sia Reggio Emilia, sia dell'altro versante, Modena, Mantova, Cremona, sono bravissimi da decenni, sono lì, sono grandi allevatori di mucche. Se non ci fossero i Sikh, nessuno si occuperebbe più del bestiame. E loro, che sono un'antica casta di guerrieri, si sono adattati a occuparsi degli animali. Lo fanno, sono popolazioni pacifiche, non danno mai problemi, però hanno un precetto religioso che vogliono osservare, che prevede 5K. In queste 5K una è il Kirpan, portate sempre questo coltello al fianco, l'altra è il turbante, l'altra tenersi i capelli lunghi, mettersi un pettine, insomma sono loro maniere per vivere in armonia con il loro precetto religioso. Solo che in realtà sul turbante ci sono state anche questioni, soprattutto in altri paesi, perché con quel turbante in testa non puoi metterti il casco. Da quando c'è la legge che prescrive il casco per andare in moto, un Sikh deve decidere: o viola la sua legge o si mette il casco. Mi sembra che in altri paesi hanno deciso che si possono tenere il turbante. Se si sfasciano la testa è un problema loro. Però andare in giro con un coltello in realtà può essere inquietante. C'è chi ha tentato in anni precedenti una mediazione, la questione è lunga, è da tanto che i Sikh dicono che devono andare in giro con il Kirpan. Ha detto quello che avevo detto questa mattina nella trasmissione di Milan e Giannino, senza ancora esserne informato: fatevi un simulacro di Kirpan, cioè un Kirpan che è come le repliche inerti delle armi, non taglia, non punge, non fa niente, come un giocattolo da bambini, uguale, che però non fa male a nessuno, e tenetevelo, vi avevo detto incautamente, se lo facciano di plastica, bellissimo, sembra uguale, ma però in realtà non fa male. No, non è così, evidentemente. Non è soltanto un oggetto simbolico, un simulacro, no, adesso è un coltello vero, perché nella loro religione è il simbolo della loro appartenenza a una stirpe di guerrieri. Lo portano per difendere i più deboli, non lo possono tirare fuori per litigare, per motivi di rabbia. Sì, questo si dice in generale, ma nemmeno noi dovremmo sempre porgere l'altra guancia, e quando mai lo facciamo? Anche noi dovremmo arrivare casti al matrimonio, quando mai lo facciamo? Anche noi dovremmo avere pietà e comprensione del nostro prossimo, e quando mai lo facciamo? Anche noi dovremmo dividere il nostro mantello e darne a chi ha bisogno ed essere felici, quando mai lo facciamo? Anche noi dovremmo dare maggior importanza alla vita eterna piuttosto alla vita terrena, e quando mai lo facciamo? Quindi logicamente il legislatore dice al Sikh: caro, sì, mi dispiace tanto che per te sia grave, ma il coltello per strada non ci vai, perché da noi le leggi dicono non devi portare il coltello per strada. Adesso entreremo più nello specifico e ci chiariremo meglio come nasce questa vicenda del Kirpan e del Sikh. Però il tema va allargato, cominciano a essere tanti i motivi in cui il precetto religioso comunque impone alle persone che lo seguono con una fede totalizzante, quindi che incide nel loro comportamento quotidiano, che vengono a contatto con noi. Abbiamo un po' perso l'idea del precetto religioso, sì, vagamente, siamo un paese che ha una religione ufficiale, che è la religione cattolica, sì, ma non credo nessuno di noi andrebbe davanti a un tribunale se gli fosse imposto di, non osservare i precetti religiosi, non andare a messa la domenica. Oppure, la domanda che vi faccio, c'è qualcosa di irrinunciabile per voi, che non necessariamente appartenga alla vostra religione di appartenenza, al vostro culto, qualcosa che possa essere assimilabile al kirpan per il Sikh? Immaginate andare in un paese in cui sia tutto vietato. Ecco, quanto vi farebbe male rinunciarci? Un oggetto comune è qualcosa a cui non potreste rinunciare. Potrebbe esserci un paese in cui dice le donne non possono mettere la gonna o non possono mettere i pantaloni. Vi sentireste in qualche maniera obbligate a protestare rispetto a questo? O anche più semplicemente è impedito portare un simbolo alla propria religione, quindi ti togli la catenina del battesimo, ti porti da quando sei nato, oppure ti togli la fede nuziale perché è comunque un simbolo di un matrimonio religioso. Questo vi farebbe molto male, sareste capaci di aprire una battaglia legale se questo vi fosse vietato? 800240024, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Show me the letter. I have shown it. Give me now. If you don't know Italian language, No. You can't touch me. Why? Okay? Because I'm not safe. No. You are not safe. Because for us, you could hide something under your hair. And if you don't take it off. Questa è una disputa che avviene all'aeroporto di Ciampino con una donna musulmana che si rifiuta di andare in un locale riservato e togliersi il velo, perché era passato i controlli di sicurezza, qualcosa suonava attorno al suo capo, gli hanno detto guarda devi toglierti il velo perché dobbiamo controllare cosa c'hai in testa, normale procedura internazionale. Questa donna aveva visto due suore, dice perché non lo dite a loro? Perché le suore non suonavano, era questa la differenza. E ne ha fatto una questione di principio, sta tutto ripreso naturalmente con uno smartphone, è diventata una vicenda su cui hanno risposto poi anche le autorità aeroportuali spiegando che non c'era nessun intento di andare contro le convinzioni religiose della donna, dobbiamo semplicemente verificare secondo un protocollo internazionale perché suonasse qualcosa sotto quel velo. Sarebbe andata in un locale riservato con del personale femminile, sarebbe tolta il velo, non l'ha voluto fare, è stata allontanata all'aeroporto, poi ha ripreso un aereo in un altro aeroporto a Fiumicino dove si è tolta il velo e quindi è passata e via dicendo. Questo proprio per far capire che se si segue una linea di principio poi ci sono dei momenti in cui qualcosa non funziona, qualcosa non torna, esiste un protocollo, una legge, la donna si era impuntata, cioè non mi importa niente, io il velo me lo tengo. Naturalmente era più un'impuntatura che altro, ma quante ne abbiamo di situazioni simili? Ad esempio, Barbara, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, piacere. Niente, cerco di essere breve. Io dico, parlavo prima con il suo operatore, dunque dicevo questo, mi fa piacere che una Corte di Cassazione si sia in qualche modo abbia detto riguardo a un pugnale. Mi fa specie perché noi dalle fine degli anni 80 il governo Prodi, se non ricordo male, ha permesso in barba alle leggi che invece erano in vigore nel nostro Stato e quindi riguardo gli animali nei macelli che ha bisogno di stordimento per essere uccisi, mentre dalla fine degli anni 80 i musulmani hanno ottenuto questa pratica barbara. Guardi che io sono una che non mangia né carne né pesce, quindi per me anche il discorso stordimento, che sarebbe tutto un capitolo. Vabbè, adesso andiamo al punto, signora, benissimo. Non allarghiamo troppo. Il punto è questo, che loro sgozzano gli animali facendoli sgocciolare il sangue. Certo, si guarda un pugnale, non si guarda invece che i musulmani continuano a macellare nel loro modo barbaro, che gli animali per minuti devono dissanguarsi in quel modo lì, senza stordimento, senza niente, e si guarda il pugnale, va bene, però guardiamo gli esseri, prima degli oggetti magari. Quindi secondo lei anche quell'uso lì andrebbe interdetto, cioè dice da noi gli animali li ammazzate come secondo le norme più umanitarie che decidiamo noi. Sì, cioè importate la carne dal di là, voglio dire, perché devono macellarli qua in questo modo nei loro macelli, che è tutto un se vai a mettere il becco. Io feci anche una denuncia per una macellazione sulla strada. No, cosa sulla strada, beh, sulla strada sono d'accordo. Sulla strada una pecora, no, io ho chiamato la forestale, praticamente è andato tutto sulla, perché loro possono uccidere in quel modo, ma scusi, ma che paese è questo qui? Cioè, non credo che uno possa ammazzare una pecora per strada, questo comunque non lo potrebbe fare nemmeno un macellaio dei nostri o un orcino dei nostri. Guardi che anche, cioè, nei macelli vengono eseguite determinate con delle accuratezze. Vabbè, adesso guardi, ha ragione, è il suo punto di vista. Lei dice, secondo me la sofferenza è indicibile, inimmaginabile, animali scannati secondo quello che non so se anche le carni kasher hanno lo stesso tipo di macellazione, sinceramente, non voglio dire cose, addentrarmi in terreni che non so, però lo sgocciolamento del sangue dell'animale è previsto da varie religioni. Evidentemente è cambiata la percezione comunque dell'animale come essere senziente nella nostra civiltà, e qualcuno su questo protesta, ne prendo atto. Daniele, velocemente, diamo un altro esempio, poi sentiamo un esperto. Daniele, buongiorno. Sì. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Noi suoniamo in una banda di cornamuse scozzesi, dove siamo soliti portare... Però non siete scozzesi voi? Ah, no, dalla pronuncia direi... Di dove siete? Di dove siete? Di Modena. Quindi a Modena vi travestite da scozzese e suonate la cornamusa. Esattamente. Ma con mutande o senza mutande? Scusa, sta domanda l'aveva fatta. Guarda, se fossi qua ti direi... ma visto che siamo... No, la verità bisogna dirla. No, ma c'è chi le porta, chi no. Non è obbligatorio, diciamo. Assolutamente no. Assolutamente. Libero ciondolo, almeno in questo non c'è obbligo di prescrizione. Voi cosa fate però in quanto scozzesi travestiti? Ma noi abbiamo questa Heart of Italy Pipe Band, dove suoniamo in tantissime occasioni, e siamo soliti portare questo pugnale, fa parte dei costumi scozzesi, si chiama il dirk, infilato proprio all'interno dei calzettoni. E solitamente però non ci andate per strada, aspetta, voi ci andate nei locali dove fate musica? Ma anche per strada, le vocazioni storiche, negli stadi, suoniamo il torneo delle sette. Scusa, ma anche al Calen di Maggio, alla Corsa dei Ceri di Gubbio, che penso che sia oggi, vanno vestiti da soldati del passato con gli spadoni, con le alabarde. Sì, esatto, succede anche questo. Noi invece andiamo nelle varie colonie della libertà, colonie della pace. Dove e nessuno vi ha mai detto niente, che avete proprio zona Sikh state voi, fra l'altro. Scusa, ma se un modenese vestito da scozzese col pugnale incontra un Sikh con un pugnale, uno dei due dice: perché tu ce l'hai, io no, oppure tu lo puoi portare, io no. Non è giusto. No, l'unica cosa che io posso dire è: come mai tu ce l'hai più lungo del mio il pugnale? Ma allora loro poi ricurvo, è tutta un'altra storia. Esatto. Beh, comunque a voi nessuno va fatto storie. Sì. No, solo all'interno degli stadi. All'interno degli stadi invece ce li fanno togliere. Sì, però una cosa, scusami Daniele, tu puoi anche metterti un pugnale finto, nessuno ti dice niente. Non ne fai una questione. Assolutamente, io sono uno di quelli che non lo porta. Tu te lo puoi portare anche di plastica, di gomma, sì, di vetro, sì, resina. È vero. Per loro è una questione religiosa, come dire portare un crocifisso senza braccia, è la stessa cosa, e non è la stessa cosa, questo è però molto chiaro. Si dovrebbero adattare alle regole italiane. Io mi sembra che l'esempio è un esempio limite, adesso entreremo nel particolare, perché sai, un coltello è girare con un'arma, e nessuno può girare con un coltello in Italia impunemente, a meno che non incorra in un reato, purtroppo è così, su quello non si può andare contro. Sentiamo però l'avvocato Alberto Guarisio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, l'avvocato Guarisio è avvocato dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, quindi ha studiato a fondo, nella fattispecie, al di là della facezza, questo problema. Un problema indubbiamente c'è. Se una persona reclama il diritto di seguire quelli che sono i dettami fondamentali della sua religione, che sono queste 5 K, noi dobbiamo in qualche maniera far conciliare questo suo diritto con l'osservanza però di alcuni diritti di sicurezza fondamentali per gli altri cittadini, che non girino gente col pugnale. Lei come si è risposto a questa domanda? Ma a me pare che la sentenza, partendo proprio da questa, si sia un po' allargata, nel senso che già nel 2016 aveva stabilito la Cassazione la stessa cosa, senza aggiungere nessun commento valoriale su problemi generali, e difatti non aveva avuto nessuna eco sulla stampa. Anche perché il valore, mi scusi avvocato, come diceva questa mattina giustamente il collega Giannino, il valore non è che sia un termine quantificabile in maniera oggettiva, il valore è soggettivo e relativo, quello che non c'è un valore comune riconosciuto, se no saremmo uno stato assolutista, o sbaglio? Sì, ma più che altro io direi, cioè c'è certamente un valore che è incorporato nella legge, e quello è il riferimento, e forse di questo la Cassazione soprattutto doveva occuparsi. La legge comunque stabilisce quel minimo comune denominatore, più o meno ampio, alla quale la collettività ha deciso di conformarsi. È ovvio che laddove c'è un reato, laddove c'è una violazione di legge, questo non si può fare, ma questo non necessita necessariamente di scomodare discorsi di valore, perché è la regola della convivenza che ci siamo dati. Il problema qua si poneva perché in questa come in altre leggi c'è un margine di apprezzamento, perché la legge dice salvo giustificato motivo. Per questo tipo specifico di contravvenzione, cioè andare in giro con un coltello al di sopra, atto ad offendere, dice la legge, dice salvo giustificato motivo. La Cassazione difatti fa proprio l'esempio del chirurgo, di chi lo usa per ragioni di lavoro, potrebbe essere il macellaio o quant'altro, no, per circostanze. Sì, però il macellaio li porta in una scatoletta dove c'è coltelli per andare a macellare, non è che lo porta alla cintura. Certo, appunto, e difatti quel problema si poneva perché la legge dice salvo giustificato motivo, e quindi laddove non c'è una funzione appunto che serva per lavoro, per ambiente eccetera, ma si pone il problema. Allora la questione è quel salvo giustificato motivo, cioè quando la legge apre a una discrezionalità, possiamo inserire e fino a che punto delle esigenze di tipo religioso? Questo è il problema, e lì si tratta semplicemente di una questione, semplicemente, cioè non è facile, di una questione di bilanciamento. È ovvio che la questione sicurezza, la questione incolumità del prossimo, è ovvio che laddove entra in gioco questo, quindi col coltello che non è il velo, che non è tante altre cose, la kippa o quant'altro, che certamente non sono atte ad offendere, laddove entra in gioco la questione di sicurezza, è ovvio che l'equilibrio si sposta un po' più a favore del divieto. Ma per paradosso, cito un non potrebbe dare SIC una sorta di porto d'armi? Una guardia giurata può girare con la pistola, il SIC gira col coltello, quindi siamo consapevoli che ha un'arma addosso, se ne assume anche tutte le responsabilità. Certo, ma questo in effetti sarebbe possibile, la norma che disciplina tutta questa questione. Ti dà un porto d'armi, so che tu hai un'arma, certo. Quindi tanto potresti averla sempre nascosta. Tondellate di italiani girano col coltello in tasca perché fanno parte di associazioni malavitose, e se una volta che li becchi ne pagano il conto con la legge. Il SIC deve portare il suo coltello, ha un porto d'armi, quindi da qualche parte è scritto che una persona con un'arma addosso gira. Forse è la situazione più semplice, o dico un'enormità dal punto di vista giuridico? No, non è un'enormità, fa parte appunto della ricerca di un punto di equilibrio. Allora, nell'ambito della legge nazionale, che è appunto quella da rispettare, si può studiare una forma di questo genere, ti autorizzo. Ma per dirne una, in Gran Bretagna è sempre, credo sia ancora vigente, una norma che consentiva ai sicchi di non portare il casco, perché aveva individuato il punto di equilibrio tra sicurezza individuale del motociclista e tutela delle esigenze religiose, proprio nel dire va bene, sacrifico le esigenze della tua sicurezza personale e ti consento di non mettere il casco perché hai il turbante. Si tratta di volta in volta di trovare, laddove la legge consente un margine appunto di gioco, di trovare questo punto di equilibrio. Però mi serve una cosa, avvocato, mi deve solo consentire altri pochi secondi del suo tempo mentre facciamo questa pausa, perché vorrei che lei rispondesse anche sulla domanda dell'ascoltatrice rispetto alla macellazione. Si rientra in questo ambito di attenzione da un punto di vista ad alcune norme dettate dall'evoluzione della nostra percezione generale dell'esistenza nostra e degli altri esseri animati, o se anche a questo punto di vista esiste libertà di culto, quindi anche libertà di scannamento libero. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, Cronache meridiane. 14 anni, originaria del Bangladesh, ma a Bologna da molti anni insieme alla sua famiglia, integrata a tal punto da voler essere uguale, almeno nell'aspetto, alle sue amiche, senza per esempio quel velo che non sopportava, ma che indossava giusto il tempo di uscire di casa. Qualche connazionale però se ne è accorto e ha avvertito la mamma, e così la ragazzina, chiamiamola Fatima, è stata affrontata dalla donna che in un primo tempo le ha tagliato alcune ciocche di capelli e poi con il rasoio l'ha rasata a zero. Una umiliazione così forte. Sì, questa è una madre che ha rasato a zero la figlia che è uscita senza velo. Ho capito, rispondo anche a tutti quelli che mi stanno scrivendo arrabbiatissimi, soprattutto il signore che scrive tutto in maiuscolo perché così pensa di trasferire il senso della sua ira e sta urlando e continua a chiamarmi poi culattone raccomandato. Mi sta spiegando che se noi andiamo in un paese islamico non possiamo mettere il crocifisso, le donne sono ridicole, devono fare il bagno col burkini, bisogna tutti a casa. Signori, è vero, esistono dei paesi in cui si è più barbari e incivili e dei paesi civilizzati. Io che mi pregio di appartenere alla parte evoluta dell'umanità, ma per me sì che possono andare in giro anche con la scimitarra, se vogliono, purché ci sia qualcuno che li autorizza a portare la scimitarra. Se fa parte del loro inscindibile senso di equilibrio, portino la scimitarra. Io mi sento equilibrato anche senza nulla addosso, sinceramente, non porto catenine, non porto anelli, non porto niente, non mi piace avere nessun simbolo di riconoscimento, non mi faccio manco tatuaggi, non metto orecchini, al di là di quello che mi chiama culattone raccomandato. Quindi si tranquillizzi, viva bene, la persona evoluta vive serenamente, non si pone questi problemi. Qualcun altro mi scrive invece qualcosa che ha un suo senso, dice: allora gli afghani dovrebbero girare col Kalashnikov, ce l'hanno anche nella loro bandiera, per loro è una sorta di oggetto di orgoglio nazionale, dovrebbero essere autorizzati a girare col Kalashnikov. È certo che da qui in poi si apre un percorso molto impervio, anche a me farebbe piacere. Vorrei girare con la katana nello zaino come nel film di Kill Bill, sarebbe bellissimo andare in aereo e appoggiarsi la katana accanto al sedile aereo, tutti con le katane, bellissimo, probabilmente non succederebbe nulla, uccide più un coltello nascosto che 50 scimitarre visibili, ne sono più che convinto. Vengo da una terra selvaggia, austera, che l'Umbria, ma ogni proloco, ogni paesino aveva almeno due volte all'anno una festa in cui ci si veste in quell'epoca imprecisabile che va da al Medioevo al Rinascimento, in cui c'erano signore vestite da damigelle, signori con le alabarde, con le balestre, con gli sciaboloni, con gli spadoni. Ma nessuno si è mai posto il problema che potessero far male a qualcuno. Roberto, buongiorno. Ma io sono d'accordo in parte a quello che dici te, perché per esempio in Sardegna sono andato tempo fa e tanti anni fa, e sono ritornato ultimamente a Orgosolo, per esempio. Tutti i pastori portano il gilet, la coppola, il coltello, la camicia bianca, eccetera, il coltello. Ma dove lo portano? Visibile, infilato nella cintura o una pinta? Sì, visibile, visibile. È contro la legge, non potrebbe. Anch'io ho tante amiche sarde che si vantano. Sì, sì, io ho amiche sarde che portano il coltello nella borsetta, mica per niente, perché è tradizione, è bello. Non lo userebbero mai in maniera, a meno che uno non le possa importunare in maniera violenta, ma portano il coltello. Ci sono alcuni luoghi in Italia in cui è più sdoganato l'uso del coltello. Anch'io quando vado in montagna ho un coltello svizzero in tasca. È logico, non credo, però è un coltellino che al massimo mi ci posso affettare il salamino, non lo so, non è fortunato. Per offendere, fatto apposta. Vediamo Mohamed, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo commentare un attimo l'argomento. Innanzitutto faccio una breve presentazione. Sono una persona che qui in Italia da circa 12 anni, di cui sono orgoglioso di essere presente in questo paese, in più sono orgoglioso di essere anche un musulmano. Vabbè, vorrei chiarire. Facciamo una lista degli orgogli, sennò la mia finisce domani. No, senz'altro non per quello che devo dire. Volevo chiarire all'inizio per far capire. Sì, vabbè, il mio punto. Mohamed, le faccio una domanda. Mi risponde sulla questione della macellazione rituale? È stato posto questo problema? Perché sennò io non ho argomenti per rispondere. Allora, io innanzitutto volevo commentare che presentarsi in un paese, diciamo, un cittadino straniero deve per obbligo rispettare le leggi di quel paese. Va bene. Poi presentarsi in numerosi, in una categoria di cui poi dopo ha dei bisogni particolari, si può chiedere di fare leggi che gli vanno bene per certe cose. Per riguardo il coltello, non posso dire che va bene anche per uno dall'India o da qualsiasi altra parte, anche da arabi, da musulmani, che nel loro paese porta il coltello, che venga qua in Italia per una legge chiara che dice non si può portare coltelli in giro e andare a dire sì, ma fa parte della mia cultura. Questo c'è una risposta da noi, una risposta diretta, che nella vita, io sono una persona che ha dovuto osservare circa 5.000 anni di storia umana, di cui sono intervenuti varie religioni, vari popoli. Si vado al punto, Mohamed, ecco, purtroppo il tempo è poco, lei vi dà risposte precise, ma c'è l'azione. Il risultato dice che bisogna trovare luoghi adatti, quindi io se in Italia mi trovo non adatto per una legge territoriale e di cui non riesco a ottenere il consenso, cerco un altro territorio di cui posso trovarmi perfettamente più comodo. Perfettamente d'accordo. Se per te il portare il coltello al fianco è una ragione di vita assoluta, non può stare in un paese in cui il coltello al fianco non si può portare. Questo è questo. Mi dice no, mi risponde, magari qualche elemento di me sulla macellazione, non vorrei lasciare la domanda in evasa. In quale senso sulla macellazione? No, una signora ha chiamato prima, dice il precetto musulmano che vuole macellare gli animali facendo sgocciolare il sangue contro le leggi italiane che dice vanno tramortiti prima. Un problema. Allora, per me non è un grande problema, per lei è un problema e quindi vorrei rispondere. Certo. Allora, io non ho sentito perché ero fuori, ho sentito la radio. Sì. Allora, sull'argomento della macellazione, come il punto di vista a parere mio, ma una domanda la faccio prima a lei e a tutti. Sparando in testa all'animale, non gli fa male? Una domanda. Sparandolo in testa, qualcuno me lo può garantire che sparando l'animale è, diciamo, più misericordioso da macellarlo o sgozzolarlo? Mohamed. Nessuno sa rispondere. No, lo so, no, è una questione, che rientra in una fetta. No, le spiego. Ecco. Sono aperte inchieste questi giorni di macelli autorizzati italiani dove assolutamente non vengono osservate le regole, però sì, ne fanno una questione, dice, perché la legge, secondo me, io sempre... Allora, le dico io una cosa, perché ho conosciuto macellai italiani fino a certo tempo fa, io ho fatto un approfondimento dettagliato, non voglio andare oltre su questo argomento, per non far perdere tempo ci serve un programma intero. Certo. Io e i miei familiari facevano macellai in Egitto e conosco degli amici che facevano macellai italiani, facevano macellai quali in Italia. Allora, sull'argomento dell'animale, scientificamente il sangue deve uscire dal corpo. Perché se no il sangue contiene tutte le malattie. Infatti io personalmente ho fatto delle prove certificate, ho preso un carne macellata da macellare. Ho capito, la faccio troppo lunga. Io da ragazzino dovevo ammazzare i maiali, ci metteva 10 minuti prima di raccogliere tutto il sangue e poi ce lo mangiavamo, facciamo il sanguinaccio, quindi non è che inorridisco di fronte a queste cose. È molto complicata la vicenda, poi mi sembra secondaria in questo momento. Omar, buongiorno. Pronto, buongiorno a lei e ai suoi interlocutori. Sì, io credo che in Italia, come al solito, viene sempre strumentalizzata dopo le cose. Io credo che qua non è stato, questa persona non è stata condannata per il turbante, è stata condannata per un'arma bianca, che è il coltello. Certo. Per la legge italiana è vietato per tutti. E poi i limiti, quelli che devono essere i limiti della cultura, e un paese dove vive una persona come ospiti, come che io sono straniero, vivo da questo paese, credo che sono un credente. Sono un religioso credente. Quindi lei è d'accordo, è d'accordo che il coltello uno lo lascia a casa, non ci sono santi. Lo lascia a casa, se in contrasto con la legge italiana lo lascia a casa. O se no, il coltello ci gira nei luoghi di culto suoi, non lo so, una cosa del genere. Ci sono Va bene, ma qua c'è scritto per legge che è autorizzata a girare nei luoghi di culto? I limiti della persona viene regolate, per questo che c'è la politica, c'è per regolare queste cose, queste piccole cose. Lei dice una cosa esatta, scusa, abbiamo ripreso l'avvocato Alberto Guariso, che non volevo far perdere altro tempo. Ricordo che è avvocato dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione. Come suggeriva l'amico ascoltatore, ci può esistere una scappatoia, si trovano nei luoghi circoscritti in cui fanno la loro professione di religione portando il coltello in alcuni momenti, però non mi sembra che se ne esca, a meno che non si autorizzi il SIC ad avere il coltello. Mi sembra che in alcuni paesi in cui ci sono alcune etnie la cui arma è importante possono portarli. I Masai per esempio possono girare con la loro sciaboletta, perché senza quella non sarebbero nulla in un paese in cui non si può portare nulla. No, certo, io sono molto d'accordo con l'ascoltatore che ha parlato da ultimo, nel senso che dobbiamo, io credo, avere un po' più, come dicevo prima, di fiducia nella legge come il punto di equilibrio. Oggi ho sentito commenti che dicevano: ah, finalmente ora gli immigrati dovranno rispettare le nostre leggi, ma sì, nessuno ha mai sostenuto, da che esiste un problema di immigrazione, che gli immigrati debbano avere delle leggi diverse o possano non rispettare la legge. Allora, come dicevo prima, la legge rappresenta questo punto di equilibrio. Qui la Cassazione addirittura usa la parola arcipelaghi culturali confliggenti per venire a capo di sto problema. A me sembra che non sia davvero il caso di scomodare arcipelaghi culturali confliggenti per dire che se la legge stabilisce un'esigenza di sicurezza in base alla quale non si può circolare col coltello, tutti la devono rispettare, punto, la cosa finisce lì. Resta il problema, appunto, che la legge consente di giustificare questo porre dell'arma quando ci siano giustificati motivi, e difatti appunto poi si tratta di, in questo era un caso di persona che circolava per strada, sì, ovviamente i giustificati motivi verranno in gioco quando ci sono le riunioni religiose o particolari circostanze che consentono di ammettere questa cosa. Lì c'è il margine effettivamente di discrezionalità del giudice. Ma per il resto, quando fanno i riti di iniziazione massonica li fanno con la spada, ma nessuno glielo impedisce. Dentro casa loro fanno quello che vogliono. Gli appassionati di cultura fantasy, ci sono negozi a Roma che vendono interi set di armamenti medievali, spade, tutto. Non se li può comprare e portare a casa, ci va ai raduni autorizzati, non è proibito in assoluto, penso, no? No, certo, infatti proprio per quello appunto la legge consente questo margine di discrezionalità. Il problema è, in questo caso, era stabilire appunto la mia convinzione religiosa costituisce un giustificato motivo. La Corte ha detto di no, in questo caso, ripeto, può essere ragionevole perché effettivamente c'è un'esigenza di sicurezza, ma che però è condivisa da tutti. Non credo che nella cultura Sikh ci sia l'idea che ciascuno può andare in giro con qualunque arma, quindi per quello che trovo veramente sbagliato scomodare questa idea di arcipelaghi culturali confliggenti, come se il valore, diciamo così, occidentale della sicurezza fosse contrapposto a un valore orientale della insicurezza. Davvero mi sembra fuori luogo. Allora teniamoci invece, come giustamente diceva l'ultimo ascoltatore, un profilo più basso e man mano ricerchiamo eventuali punti di equilibrio, sempre affidandoci alla legge che rappresenta, giusto o sbagliata che sia, il punto di equilibrio. Poi onestamente, avvocato, io che riconosco poi l'animus degli ascoltatori che chiamano, gli stessi che oggi fanno gli indignati, se ne stiano a casa loro, se vogliono portare il coltello, sono quelli che una settimana fa reclamavano il diritto di girare per strada con pistola e difendersi comunque dai pericoli. Quindi esiste anche una sorta di relativismo culturale molto smaccato nelle partecipazioni di pancia ai problemi, senza naturalmente avere poi strumenti culturali per decodificare quello che accade. E ci fermiamo solo un istante. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Vedo che tutta l'attenzione del pubblico si è spostata, ma questo è un segno dei tempi che va analizzato, su cui bisogna riflettere, sull'aspetto della macellazione. C'è chi mi scrive: c'è un regio decreto del 1928 che autorizza la macellazione religiosa. Mi viene a pensare, non ho davanti adesso strumenti di verifica immediata, che possa essere plausibile. Mi confermano che anche gli ebrei praticano lo stesso metodo di macellazione, cioè il metodo kasher prevede appunto lo sgocciolamento del sangue, ma è anche comprensibile, sono, diciamo, filoni religiosi abbastanza che sono proceduti per alcuni periodi su idee comuni. È un problema semplicemente dato dalla nostra diversa sensibilità di parte dell'umanità attuale, per cui esiste una sorta di senso di maggiore afflato nei confronti degli animali in quanto esseri senzienti, ma una cosa che apprezzo, non può condizionare l'andamento generale. Poi anche in questo sono figli e figliastri, scusate, gli agnellini teneri sotto Pasqua fanno tenerezza a tutti, ma che alle galline si tiri il collo, perché nessuno protesta. Avete mai visto tirare il collo a una gallina? Guardate, ci sta 3-4 minuti lì a sgambettare, non è che è proprio una cosa immediata. Perché nessuno si prende a cuore, non tirate il collo alle galline, ma però invece dell'agnellino sgozzato ci si sta a vedere quanto è lungo il coltello. Ragazzi, o partiamo dal principio che gli animali diventano intoccabili tutti. Se questo deciderà il mondo, a me non mi cambia assolutamente nulla, ma mangerò pane e formaggio e sto bene lo stesso. O se no basta, se no sembra semplicemente sugli aspetti più emotivamente. E quelli coccolosi, ciuffolosi, teneroni, sì, gli altri no. La gallina puzza, è brutta, c'ha le penne e scacazza e quindi si può tirare il collo. L'agnellino no, va solo ammazzato in maniera umanitaria, con la sedia elettrica. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, secondo me la Corte di Cassazione si è sbagliata. Le leggi vanno rispettate, ma qui i valori non c'entrano, non c'è nessuna legge che dice che vanno adottati dei valori. Questo è da stamattina che lo dice il buon Giannino, questo è proprio vero. Sì, però sul coltello di girare con un'arma la legge lo dice, questo è il senso. No, appunto, ma gli unici limiti di legge sono rispettare quello sull'ordine pubblico e sulla pubblica moralità, quindi niente atti o scene in luogo pubblico. Però diciamo chiaramente che in Italia non ci sono dei valori, si va dall'estrema destra fascista alle famiglie comuniste di varia impostazione, certo. Quindi non si saprebbe neanche quali valori bisogna accettare. Esistono osservanti e atei, esistono, come vede, persone che mi danno del culattone raccomandato e altri che partecipano in maniera più costruttiva alla trasmissione. L'umanità è diversa, non esiste un valore assoluto. Però qualcuno mi fa l'esempio, ad esempio, del burka. Una donna che gira col burka è una donna sottoposta a uno strumento di vessazione e di tortura? Secondo me sì. Questa donna però è obbligata a metterlo, è una sua scelta consenziente o volontaria? Bisogna capirlo, è una cosa molto difficile. Però lo scontro e l'incontro e la commistione di punti di vista diversi, che fa parte dell'evoluzione dell'umanità. L'umanità sempre evoluta con grandi flussi migratori che cambiavano comunque le regole o modificavano le regole. E pone alcune domande. Se il mondo fosse tutto uguale, tutti facessimo le stesse cose, non staremmo qui a farci queste domande. Farsi domande su come si cambia, come si evolve, fa parte del nostro essere umano, se no saremmo scimpanzé evoluti semplicemente. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. L'ascolto. Io sono presidente di una federazione privata per quanto riguarda la scherma antica, storica, insomma ho sentito che parlavate voi potete, le vostre armi ve le potete portare quando andate a fare una manifestazione? Allora, intanto non si devono definire armi, perché io non posso portare delle armi. Per arma intendiamo un'arma affilata e con la punta. Sì, vabbè, gli oggetti di... Sono oggetti, quindi non hanno filo e punta, sono come una mazza da baseball, se tecnicamente... Sono quegli spadoni che vendono nei negozi storici per vestiti. Non sempre, perché a volte magari si trova lo spadone fantasy, a volte è affilato con la punta, perché magari viene dal Pakistan dove non hanno questa legge. Ma se uno va tipo va a San Marino, vendono spade per strada. Quelle di San Marino sono tutte illegali, io glielo dico proprio, no. Lo annuncio qui, se ha il filo e la punta è un'arma a bianca, andrebbe dichiarata, ma non si può fondamentalmente fare, a meno che non è un'arma da collezione. Quindi se io compro una spada del 500 originale, quella ha il filo e la punta, però è un'arma mondiale. Ma io le faccio un esempio, un figlio appassionato di cultura giapponese, ogni tanto trovo una bella katana e gliela regalo, ma non tagliano e non pungono. Se tagliano e non pungono, sono di latta. È una mazza da baseball, è un pezzo, sì, di son belle, molto bello. Sono luccicano. Sì, ma... No, ce le ho anch'io, sì, lo so perfettamente. Quello che Frato, non deve avere è il filo e la punta. Io... Per un prezzo da 30-50 euro non è che uno si aspetta... Ma certo, quello è 4,40 stainless, insomma sono oggetti così, orpelli. Poi magari ci sono le attrezzature sportive che ecco, ma la domanda è questa, ma potevano i sicca anche loro farsi un orpello? No, non voglio farsi un orpello, le tagliare e pungere. Se fossero fatti un pugnale orpello che si vende anche a caselle autostrada e costa 30 euro, bellissimo, ci sono tutti i tipi, non staremmo qui a discutere. No, la lama deve tagliare perché è un oggetto di culto. E qui, comunque, dopo un'ora di discussione, siamo al punto di partenza. Alla prossima.